Credo che i paesi produttori devono prendere atto che esiste anche un problema strutturale da parte del rapporto domanda-offerta, quindi il tema della produzione, la quantità di produzione non sia mal posto. Contemporaneamente noi dobbiamo riconoscere che attorno al sistema dei prezzi si sono addensati fenomeni giocati sulle aspettative, sui meccanismi finanziari, sui quali bisogna intervenire anche per toglierci alibi reciproci, per rendere più chiara la situazione. Io credo, per esempio, ho fatto questa proposta, che studiare istituzioni o strumenti anche di garanzia sulle transazioni, cioè renderle più sicure, possa ridurre anche meccanismi speculativi e a questo punto rendere più efficace e credibile una reciproca trasparenza, sia per noi dal lato della domanda, cioè cosa vogliamo fare seriamente dal punto di vista di rendere più trasparente la domanda, e sia dal lato loro, per vedere più chiaramente i problemi relativi agli investimenti, i quali bisogna trovare dei meccanismi anche di cooperazione, di collaborazione, perché ci siano questi investimenti e non si verifichi uno strozzatura dal lato dell'offerta.